I giochi, come altri aspetti della vita materiale, sono entità in evoluzione costante, come è stato detto delle conte e delle filastrocche nelle puntate precedenti. Così può capitare che i giochi tradizionali subiscano trasformazioni di diverso tipo, come nel caso del calcio balilla, cioè di un gioco che nasce come attività oratoriale e in seguito si diffonde nei bar e che nei giorni d'oggi, per mezzo delle associazioni nazionali e delle loro ramificazioni locali, cerca di costruirsi uno spazio istituzionalizzato e un riconoscimento ufficiale, come disciplina ad amplissima diffusione fondata su principi formalizzati. In questo modo il gioco si specializza e si arricchisce. Il gioco che c'era prima non scompare, ma viene affiancato da nuove realtà in competizione, nuovi regolamenti, nuovi modi di trasmettere le tecniche di gioco e nuove relazioni tra il gioco e la società stessa. Radio 110 presenta Bim Bom Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo. Benvenuti all'undicesima puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, in onda su 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Il gioco di cui vogliamo parlarvi oggi è il calcio balilla. Volevamo approfondire il discorso sui giochi tradizionali nostrani, affrontando un caso molto celebre nel nostro paese. Il calcio balilla in Italia non è soltanto uno dei giochi più famosi e praticati a livello popolare, ma un vero e proprio feticcio culturale. Ci interessava sapere quali fossero gli aspetti regolamentati di un gioco praticato per lo più in contesti informali, e ci siamo imbattuti in una realtà molto più sfaccettata di quello che potevamo aspettarci. Un progetto molto ambizioso di un gruppo di giocatori, esperti e calati in una realtà che scavalca i confini nazionali, confini che tra l'altro mai avremmo pensato di varcare. Giocatori determinati a fornire al calcio balilla un'identità istituzionale e un riconoscimento ufficiale, addirittura a livello olimpico. Abbiamo così scoperto la ricchezza di un gioco sotto vari punti di vista nuovi e inattesi. Lasciamo adesso la parola all'ospite di questa puntata, Gianmarco Napoli, presidente della FICB Torino, che ci introduce l'associazione, risponde alle nostre domande ingenue e così facendo ci offre una breve panoramica dell'attuale organizzazione del calcio balilla mondiale a livello agonistico. Allora, siamo in linea col signor Gianmarco Napoli, che è il presidente dell'associazione Federazione Italiana Calcio Balilla Torino, non so se dico bene. E la denominazione esatta è FICB Torino. FICB Torino, perfetto. FICB Torino. Che mi pare sia una affiliata alla Federazione Italiana comunque. Sì, noi siamo una realtà nata dalla richiesta della Federazione di presidiare il territorio di Torino. Fin dal 2005 siamo allora affiancati e seguiamo appunto, come diceva lei, tutte le norme sportive e di gestione che la Federazione, tra virgolette, decide. Allora, noi abbiamo preparato delle domande un po' tecniche e anche un po' ingenue, nel senso che il calcio balilla è una cosa che uno è abituato, non so, a giocare al bar piuttosto che nel locale che ne è fornito, ma in realtà il calcio balilla può essere anche una realtà articolata con dei regolamenti e delle istituzioni, come abbiamo già detto. E la prima domanda ingenua è: ma esistono veramente altri paesi dove giocano a calcio balilla? Nel senso, io pensavo che il calcetto fosse una cosa squisitamente italiana, invece mi pare di aver capito che non è vero. Il calcio balilla è una realtà mondiale, proprio nel vero senso della parola. Attualmente c'è un ente riconosciuto a livello internazionale che si chiama ITSF, che sta per International Table Soccer Federation, al quale sono affiliate o comunque sono riconosciute circa 65 nazioni che stanno tra l'America e l'Asia e l'Oceania, comprendendo Europa piuttosto che Africa. E come siamo messi? Nel senso, quindi non è detto che noi siamo i più forti? No, i risultati sportivi dimostrano che non siamo i più forti, purtroppo. E c'è un motivo di base che ci aiuta a difendere la nostra cattiva posizione, perché il regolamento internazionale prevede di giocare solo ed esclusivamente a ganci, mentre invece le abitudini italiane sono quelle che portano a giocare a due specialità principalmente, che sono la specialità tradizionale e la specialità al volo. Da circa 3 anni, 4 4 anni la federazione ha inserito nel suo programma sportivo anche i ganci, nel tentativo proprio di incentivare i giocatori, gli appassionati ad allenarsi e a migliorare alla specialità ganci, nel tentativo di essere poi competitivi a livello internazionale. C'è comunque da sottolineare che per il mondo disabile invece siamo per 3 volte consecutivamente campioni del mondo, con Francesco Bonanno di Varese e Fabio Cassanelli di Milano. Il ranking internazionale si divide in 5 categorie, divise in doppio e singolo: generale, uomini, donne, junior e senior, divisi per nazionalità, genere ed età dei giocatori. Ai giocatori viene assegnato un punteggio a seconda del piazzamento in un torneo. Il ranking si riferisce agli ultimi 12 mesi di attività. Perché il risultato di un torneo sia considerato valido, deve avere un minimo per i tornei di singolo di 4 squadre o giocatori, 3 per quelli di doppio. I punteggi della categoria generale si calcolano aggiungendo i migliori 8 giocatori della categoria maschile, le migliori 6 della categoria femminile, i migliori 3 della categoria junior e altrettanti della categoria senior, nonché i punteggi delle nazionali nella Coppa del Mondo e della World Championship Series. Per approfondire, cosa sono i ganci? Allora, la specialità ganci è una specialità che richiama un po' il gioco dei nostri nonni, si può dire. Cioè, una volta in Italia, nel primo dopoguerra fino agli anni 60, si giocava a calcio balilla permettendo il passaggio tra ometto ed ometto e di conseguenza poi il tiro diretto in porta. Il gancio è una sorta di passaggio tra giocatori, è come se al calcio due giocatori della stessa squadra si passano la palla, poi arrivano davanti alla porta e segnano. Questo è, nel calcio balilla, è denominato il gancio. Le altre specialità, come la specialità tradizionale e il volo, non permettono questo tipo di pratica. Di conseguenza rientra all'interno del regolamento, rientra come un fallo e di conseguenza non si può fare, ecco. Bim bum bale giù. A questo punto, dopo aver scoperto che il calcio balilla è una disciplina praticata a livello mondiale, con una sua organizzazione e un suo regolamento particolari, ci siamo chiesti come si fa a diventare un agonista, a cominciare dai cosiddetti fondamentali, cioè da quei movimenti, come ad esempio il passaggio nel calcio, la corretta postura nel podismo o lo scivolamento nella pallacanestro, che vengono insegnati per primi all'iniziazione della tecnica di gioco e il cui corretto apprendimento è centrale nella preparazione di un bravo giocatore. E chi è che svolge in questo caso il ruolo di allenatore? Abbiamo rivolto questi interrogativi a Gianmarco Napoli e nel prossimo spezzone dell'intervista vi proponiamo la sua risposta. Allora, sicuramente per diventare, diciamo, degli agonisti, dei professionisti o comunque per rientrare nella cerchia dei giocatori riconosciuti a livello italiano, quello che conta è la partecipazione ai campionati nazionali e di conseguenza i risultati che ognuno di noi può ottenere. Dunque, quello che conta sono i meriti sportivi. Obiettivamente, per raggiungere questi risultati ci deve essere alla base un grande allenamento. Oltre all'allenamento ci deve essere la conoscenza di particolari tecniche che vengono ad oggi tramandate da giocatore a giocatore. Cioè, vere scuole di calcio balilla non ne sono mai esistite e non ne esistono. Questo per un problema di gestione, più che altro di gestione di location e fondi per la SD. Perché, per portare un esempio molto schietto, un genitore, un padre di famiglia, comunque sia una famiglia, a parere mio, non porterebbe il proprio figlio all'interno di un bar, per quanto questo bar o bowling o birreria sia pulita, con clientela selezionata e via discorrendo. A noi mancano sedi sportive reali, cioè proprio dedicate, ecco, allo sport del calcio balilla. Diciamo che adesso appunto l'attività è ancora riservata a posti come appunto i bar, come ha citato lei? Sì, sì, sì. Poi ci sono ASD, associazioni come la nostra, come la FCB Torino, che autofinanziandosi hanno creato dei rapporti di partnership con alcune sale. Ad esempio, per quanto riguarda Torino, vengono definite arenas e sono disponibili sul nostro sito, che è fcbtorino.com, all'interno delle quali abbiamo creato uno standard come sala da calcio balilla molto alta, partendo dai modelli del calcio balilla, finendo all'organizzazione delle gare, ad dare delle abitudini ai giocatori, per farle ad esempio per parlarle anche dei problemi relativi al mondo del calcio balilla. Nelle nostre sale è quasi, diciamo così, metaforicamente vietato giocare d'azzardo, a soldi. Il calcio balilla è un gioco che nasce negli oratori, poi si trasporta negli anni nei bar e all'interno dei bar diventa uno di quei giochi denominati, diciamo, d'azzardo, no? Da un po' di anni a questa parte, grazie allo sforzo di molte persone, queste abitudini si sono un po' perse, ecco. Vediamo il calcio balilla, ad esempio nelle nostre sale vediamo il calcio balilla proprio come uno sport. Dunque quotidianamente c'è chi si incontra per allenarsi, per giocare, con competizioni ad allenarsi e poi dimostrare durante le gare che noi organizziamo il proprio valore, ecco. Quindi diciamo che in qualche modo la vostra iniziativa sta cercando di creare quelle scuole di calcio balilla che, come ha detto lei prima, sì, mancano, nel senso che il giocatore più esperto, sì, viene nella vostra arena e insegna al giocatore meno, sì, esperto i trucchi del mestiere, sì, diciamo. Esatto, però ad oggi è una cosa fatta in amicizia, ecco, è una cosa fatta per piacere. Io, per portarle un esempio, io ho 34 anni, ho iniziato a giocare a calcio balilla che ne avevo 16 e io mi ricordo che quando ne avevo circa 18 conoscevo già un bel po' di persone nell'ambiente, giocatori molto forti. Alcuni di questi mi vietavano di guardare quando si allenavano per paura di che qualcuno capisse i segreti dei suoi tiri, piuttosto che... Questa era una politica antica. Ad oggi giocatori di altissimo livello, le potrei citare, non so, Caruso Massimo, che oltretutto è di Torino ed è campione italiano assoluto a 20 anni, oppure Giovannini Roberto di Castellammonte, che ne ha 33 ed è l'ex campione italiano assoluto, sono giocatori fortissimi. Questi giocatori si prestano a giocare con chiunque e qualunque persona conoscente o estranea vada da loro a chiedere un consiglio piuttosto che un parere, c'è piena disponibilità. Ma questo è proprio perché è cambiata la mentalità. Da un approccio, diciamo così, artigianale, come il mastro artigiano che nasconde i propri trucchi del mestiere agli altri, adesso c'è una realtà più corporativa, più associativa, quindi gli esperti condividono e cercano, nella condivisione mi sembra di capire, che cercano di creare lo sviluppo per una realtà che possa dirsi anche professionale, istituzionale, riconosciuta, come d'altro canto lei giustamente ha sottolineato, il calcio balilla è stato giocato da un italiano su tre fino ad ora e questo non è un caso. Ed è giusto che gli si riconosca, diciamo, uno spazio anche privilegiato in un certo qual modo. Sì, certo che poi alla fine, a parere mio, bisogna fare i conti con i fatti. Cioè, anche se il calcio balilla piace agli italiani, piace a molti italiani, se nessuno si prodiga perché nascano realtà dove la qualità dell'offerta è migliore rispetto a un calcio balilla piazzato all'interno di un bar piuttosto che di una bocciofila e punto, sì, il calcio balilla non potrà mai crescere. Questo, sì, I veri appassionati devono sforzarsi, partendo dai dirigenti, finendo ai giocatori, per tentare di creare qualcosa che poi possa anche essere visto bene dalle istituzioni e di conseguenza poi si creino tutti i meccanismi che portano a creare il vero contesto sportivo, ecco. Bim bum bale giù! In qualche modo stiamo entrando in una zona di confine tra tre territori: quello più ovvio del gioco, quello dello sport che si distingue dal gioco per un rapporto diverso con il corpo e con i diversi gradi di difficoltà nell'esecuzione dei movimenti specifici di ciascuna disciplina, e il territorio più ampio dell'interazione tra diverse istanze sociali. Nel caso della FCB, il progetto è quello di realizzare non soltanto un'istituzionalizzazione del gioco, ma anche di accompagnare questo riconoscimento con l'apertura di centri di aggregazione particolari, dove potersi incontrare con i giocatori più esperti, imparare a giocare e soprattutto divertirsi. A questo proposito la FCB, in particolare quella di Torino, si pone anche altri tipi di obiettivi che ascoltiamo dalla viva voce di Gianmarco Napoli, a partire dal motto dell'associazione, molto particolare nella scelta delle parole. L'ultima domanda è una cosa molto particolare che io ho notato sul vostro sito, che è il vostro motto, che è il calcio balilla strumento per competere, divertirsi, riabilitarsi, comunicare e promuovere. È molto interessante questo verbo riabilitarsi. corsi. Mi piacerebbe, lei ha parlato già di integrazione, anche degli straordinari successi nella categoria disabili che state avendo. Mi piacerebbe sapere, appunto, perché comunque il calcio balilla nell'esperienza è uno strumento socializzante, le persone comunque si conoscono e fanno più o meno amicizia attraverso il calcio balilla, come il calcio balilla diventa uno strumento riabilitativo. Ok. Allora, glielo spiego molto volentieri perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Sì. Glielo spiego primo perché il calcio balilla ha fatto passi da gigante grazie a due persone in Italia. Sicuramente il presidente della Federazione Italiana Calcio Balilla, che è Massimo Ragone, e poi a seguire grazie all'inserimento negli organi federali di Francesco Bonanno, che è questo ragazzo del quale le parlavo prima. Sì. Che è attuale campione del mondo. Questo ragazzo è sulla sedia a rotelle, un disabile. Sì. E lei pensi che giocava i campionati con i normodotati, dunque con gente che non è affetta da problemi, non ha nessun tipo di problema motorio. Sì. No? E rientrava tra i primi 60 del ranking nazionale. È una persona molto attiva che attualmente sta svolgendo un lavoro sul territorio nazionale di promozione, appunto, di un progetto che viene definito paralimpico. Questo progetto prevede l'inserimento dei calciobalilla all'interno dei centri ospedalieri. Tengo a precisare che i calciobalilla vengono donati ai centri ospedalieri riabilitativi che appoggiano il progetto e oltretutto non hanno un fine commerciale, cioè sono gratuiti, non c'è gettoniera. Tutto questo è stato possibile grazie allo sforzo della Roberto Sport, che è un'azienda costruttrice di calciobalilla, che ha ideato un modello di calciobalilla dedicato alle persone che sono sulla carrozzina. Praticamente il calciobalilla permette l'inserimento della carrozzina sotto il calciobalilla. È stato fatto con una dimensione differente rispetto a quello classico. In seguito tutto questo progetto è stato visionato da alcuni medici italiani che hanno appoggiato il progetto definendo il calciobalilla come uno sport riabilitativo. Questo perché stimola sicuramente alcuni movimenti degli arti superiori e anche della schiena. E oltretutto, cosa fondamentale, è comunque sia un'attività socializzante e stimolante per la psiche. Nello specifico, quando una persona subisce un trauma, facciamo un esempio di un incidente, sicuramente la sua psiche è traumatizzata. Fare attività, ma non solo a calciobalilla, fare qualunque tipo di attività aiuta, ecco, la persona ad uscire un po' al di fuori dalle proprie problematiche. Questo è per appunto per quanto riguarda il calciobalilla come sport riabilitativo. Sì. D'altro canto, questa possibilità riabilitativa è stata uno degli spunti che ha permesso l'invenzione stessa del calcio balilla. Alejandro Finisterre, pseudonimo di Alejandro Campos Ramirez, poeta, filosofo, editore, ballerino di tip tap, fiero oppositore del regime di Francisco Franco e tra i primi dirottatori aerei della storia dell'aviazione, passerà alla storia non per tutto questo, ma per aver inventato e perfezionato il calcio balilla, futbolini in spagnolo, nella sua versione più moderna con gli omini sagomati. Ricoverato in ospedale, Alejandro Finisterre si accorse che la maggior parte dei suoi compagni di corsia erano adolescenti come lui, ma più sfortunati perché a causa delle ferite avevano subito l'amputazione degli arti inferiori, che avrebbe impedito loro di correre per il resto della loro vita. Appassionato di ping pong, Finisterre pensò allora che se si poteva giocare a una sorta di mini tennis con racchette e tavolo verde, lo stesso si poteva fare con il calcio. Ed ecco che, grazie al falegname Francisco Javier Altuna, che lavorava nell'ospedale, piccoli giocatori, detti omini di legno, vennero infilati in lunghe aste orizzontali. Le porte, realizzate scavando due aperture sui lati corti del piano che reggeva la struttura, e circondate da una piccola rete, proprio come quella del football vero. Ero a Barcellona quando un leader anarchico che fabbricava gazzose vide il mio calcio balilla e mi disse subito di registrarlo, raccontò qualche anno fa Finisterre. L'invenzione venne prontamente registrata nel 1937 a Barcellona, anche perché qualcosa di simile già esisteva opera del tedesco Brotto Wachter, che ne aveva realizzato una versione più semplice 6 anni prima, a cui mancavano però le sagome degli omini. E negli stessi anni anche in Francia vennero realizzati i primi tavoli da gioco, per mano di Lucien Rosengard. Bagar, operaio della Citroën e inventore per diletto. Nel 1947 un geniale marsigliese, Marcel Zosso, crea e diffonde i primi calcio balilla, chiamati Sport Foot, che riscuotono un immediato successo soprattutto nel sud del paese. Nel 1949 Zosso decide di importare lo Sport Foot in Italia e sceglie Alessandria come sede. In cerca di fornitore, Zosso li trova soprattutto tra i fabbricanti di bare. Nel gennaio 1950 è pronto il primo Sport Foot italiano, ovvero il pionieristico calcio balilla alessandrino. Un gioco che abbraccia tutta Europa e che negli anni 50 si diffonderà anche negli Stati Uniti e da lì, attraverso il lavoro di Larry Patterson della LT Patterson Distributors di Cincinnati, il gioco del Fußball, trascrizione inglese del tedesco Fußball, diventerà uno dei giochi più famosi al mondo. Bim bum ba lei giù. Salutiamo e ringraziamo Gianmarco Napoli per averci raccontato le attività della sua associazione. Lasciamo adesso la parola a Luca Cerrato per la rubrica del Fogliaccio, che ci parlerà di altri giochi che tutti noi abbiamo sicuramente giocato, ma di cui probabilmente non abbiamo mai sentito parlare in questi termini: i giochi di allineamento. Bim bum balle giù presenta la rubrica del Fogliaccio, a cura di Luca Cerrato. Giochi di allineamento. Quasi tutti a scuola abbiamo sperimentato più o meno a lungo il tris, ovvero il primo gioco astratto con il quale ognuno si confronta durante la propria infanzia. Compresa la banale soluzione, si è passati ad alcune varianti più complesse, per occupare i momenti di noia durante la lezione, un forza 4 oppure mettere in fila 4 pezzi al posto di 3. Questa tipologia di giochi chiamati di allineamento tradizionalmente è diffusa in Estremo Oriente. Il Gomoku è il gioco più antico. Lo scopo del gioco è mettere in fila 5 propri pezzi su un tavoliere quadrato. Il problema che si riscontra quasi subito in questo gioco è che il nero, cioè il secondo giocatore, gioca sempre in difesa ed ha poche possibilità di vittoria. Per ovviare a questo difetto, alla fine del 1800 si creò il Renyu, con l'identico scopo del Gomoku ma con una particolare fase di apertura creata per bilanciare la partita. Al giorno d'oggi vengono ancora proposte varianti sul modello tradizionale del Gomoku, per esempio con X6 oppure con Netti 6, in cui vince chi fa un filotto di 6 pedine, col bianco che inizia posizionando una pedina, dopodiché i giocatori al proprio turno depositeranno 2 pedine a testa. Altra variante moderna è l'Iren 6, un misto tra il Gomoku e il tradizionale Go. Lo scopo è mettere in fila 7 pedine. In più si è introdotta la regola di cattura utilizzata nel gioco del Go. Rimanendo in tema di cattura, bisogna ricordare il pente. Si vince mettendo in fila 5 pedine oppure catturando 5 copie di pietre avversarie. La cattura avviene imprigionando le pietre avversarie tra 2 proprie. Ai nostri giorni si continua a creare giochi basati sull'allineamento. In Midlife, dell'inglese Andy Hopwood, lo scopo è creare più tris possibili. Il gioco ha 2 caratteristiche. La prima è il tavoliere modulare, cioè la sua forma può cambiare partita dopo partita. La seconda, sulle 8 pedine a disposizione del giocatore, sono presenti incisioni raffiguranti 4 simboli diversi. Piazzando un proprio pezzo si costringe l'avversario a collocare il proprio rispettando un certo vincolo indicato dal simbolo. Per esempio, l'avversario potrà collocare il prossimo pezzo solo nelle caselle adiacenti o solo in quelle diagonali o in orizzontale rispetto al pezzo piazzato. Altri giochi moderni utilizzano il mettere in fila dei pezzi non per vincere ma come mezzo per raggiungere la vittoria. Un esempio è Inch. Quando un giocatore posiziona in fila 5 pedine del proprio colore, può ritirare dal pezzo uno speciale pezzo a forma d'anello. La vittoria si ottiene portando fuori 3 anelli. Bim bum bale giù! Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Oggi abbiamo voluto raccogliere la sfida di parlare di un gioco che è anche un feticcio della nostra cultura popolare, il calcio balilla, per scoprire che la sua invenzione è condivisa da più nazioni europee quasi simultaneamente, a cavallo delle 2 guerre mondiali. Non solo, abbiamo scoperto che i suoi luoghi privilegiati, il bar, le birrerie, il circolo e il club, non corrispondono a quelli originali, cioè l'ospedale e l'oratorio. E per finire, che in virtù della sua stessa natura, è un gioco che si presta alla terapia riabilitativa tanto fisica quanto psicologica. Una pratica grafica che mostra bene qual è la natura dei confini che separano le diverse attività umane l'una dall'altra, labili, porosi, in continui comunicazione e scambio. Nulla di quello che facciamo appartiene ad un unico ambito, ma ne tocca sempre diversi, coinvolgendo valori e persone. Per la puntata di oggi ringraziamo Gianmarco Napoli per la partecipazione, Luca Cerrato per la rubrica del Fogliaccio e Carlo e Davide alla parte tecnica. Io sono Francesco, l'appuntamento per Bim Bum Baleggiù è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Baleggiù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Baleggiù, così gioca il mondo.